Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro sesto, versi 313-570. Avendo irriso Latona per i suoi due unici figli, Apollo e Diana, Niobe, regina di Tebe e madre di 7 femmine e 7 maschi, assiste alla morte di tutti e 14 i suoi figli fulminati dalle frecce di Apollo e Diana, e diventa di pietra. Da allora davvero tutti, donne e uomini, temono gli sbocchi dell'ira divina e tutti, col massimo zelo, si sono applicati al culto della madre dei due gemelli. L'accaduto, come succede, induce a evocarne di analoghi. Uno racconta: una volta nei campi di Licia, i folchi han pagato caro anche loro il fatto di vilipenderla. Per l'umiltà dei soggetti, l'episodio non è notissimo, ma straordinario. Ho visto con i miei occhi lo stagno dove si è consumato il portento. Troppo vecchio per mettersi in viaggio, mio padre mi incaricò di portargli una scelta di buoi di laggiù, e dalla partenza mi diede per guida un tale del posto. Mentre con lui attraverso i pascoli, ecco che in mezzo a un laghetto ti vedo un vecchio altare annerito dal fumo dei sacrifici e cintato di tremule canne. La guida si arresta e in un timido sussurrio «proteggimi», dice, e io stesso sussurro un «proteggimi». È a questo punto che chiedo se quello fosse un altare consacrato alle naiadi, ai fauni o a un dio locale. La guida risponde con queste parole: «No, figliolo, l'altare non è abitato da un dio di montagna. Si intitola a quella che un tempo la moglie del re degli dèi bandì dalla terra e che in lacrime, vagabonda, giusto Delo ospitò, quando l'isola ancora flottava leggera sul mare. Lì, addossata una palma e da un ulivo, Latona ha dato alla luce i gemelli a dispetto della matrigna. E anche da Delo raccontano che lei fuggisse Giunone durante il puerperio, portandosi in collo i due figli divini. Una volta raggiunta la Licia, terra della chimera, coi campi bruciati dal sole, stremata dal viaggio, la dea sente nel soffoco d'afa la sete seccarle la gola, mentre gli ingordi lattanti le han prosciugato i seni. Quando ecco che in fondo a una valle succede che scorga un modesto specchio d'acqua, laggiù contadini che stan raccogliendo fasci di vimini, giunchi ed alghe palustri. La figlia del titano Latona si accosta e, inginocchiata per terra, fa per dissetarsi bevendo quell'acqua freschissima, ma quelli glielo proibiscono. Eccepisce la dea: «Perché mi impedite di bere acqua? L'acqua è di tutti. La natura non cede a nessuno la proprietà del sole, dell'aria o dell'acqua. Volevo niente più che un bene comune, che peraltro vi sto chiedendo in regalo. Non intendevo sciacquare qui dentro il mio corpo spossato, intendevo soltanto levarmi la sete. Parlo e in bocca non ho una goccia di saliva, mi brucia la gola, la voce fatica ad uscirmi. Un sorso d'acqua per me sarà nettare, mi ridarà la vita, e sarete voi a ridarmi la vita con l'acqua. Abbiate almeno pietà di questi due che mi tendono le loro braccine», e in effetti tendevano le braccine. Come non commuoversi a queste tenere istanze? Ma quelli niente, rincarano, minacciando la poveretta se non si leva dai piedi e coprendola d'improperi. Bastasse! Loro coi loro piedi e le mani loro intorbidano il laghetto e, ballandoci dentro, smuovono il fango molliccio che affiora dal fondo, da vere carogne. L'ira scaccia la sete e ormai la figlia di Ceo non prega più quegli straccioni, non vuole esprimersi più in modo umiliante per una dea, leva le palme alle stelle e grida: «In questo stagno voi ci vivrete per sempre». Il desiderio si avvera, se la passano bene nell'acqua, ora immergendosi tutti nel cavo della palude, ora spuntando col capo e nuotando a pel d'acqua, sovente accovacciandosi in riva allo stagno o rituffandosi nel gelo del fondo lago. Ma son sempre lì che si ostinano a blaterarsi contro con quelle linguacce indecenti e, se sott'acqua, si sforzano a imprecare sott'acqua. La voce s'è fatta roca, si gonfiano i colli a soffiarci, gli stessi improperi, passando, spalancano bocche aperte. La testa si incolla alle spalle, il collo sparisce, la schiena si tinge di verde, la pancia, che è la più parte del corpo, biancheggia e nel fango mai viste prima sguazzano rane. Quando la voce narrante, che ignoro chi fosse, ha finito la storia dei contadini di Licia, a un altro sovviene del satiro che, dopo averlo battuto in gara di flauto, Apollo punì. «Perché mi estrai da me stesso?» diceva. «Mi pento!» gridava. «Il flauto non vale tanto!» E lui che grida ha la pelle già tutta strappata da tutta la carne. Non è che una piaga, da tutto gli sgronda sangue. Sguainati i nervi si vedono e brillano palpitando le vene spellate. I visceri allo scoperto potresti contarli e contare le fibre che gli traspaiono in petto. Fauni agresti, divinità dei boschi e fratelli satiri, e Olimpo, anche Olimpo, che gli è pur sempre caro, e le ninfe lo piangono tutti, e tutti quanti per quelle montagne pascolan greggi lanosi e mandrie con tanto di corna. Macerata dalla caduta di tanto profluvio di lacrime, se ne impregna la terra, giù giù fino alle falde profonde, per poi tramutarlo in acqua e renderlo all'aria aperta. Di lì si precipita a mare un fiume fra rive scoscese e Marsia lo chiamano, Marsia, il più limpido fiume di Frigia. Dopo questo racconto, la gente ritorna subito al presente per piangere Anfione, scomparso con tutta la stirpe. Incolpano tutti la madre, a compatire anche lei, l'unico a quanto raccontano è Pelope, il quale, scoprendosi il torso, pare ostentasse la spalla sinistra d'avorio. Alla nascita questa spalla era di carne ed aveva lo stesso colore dell'altra. Poi, fatto a pezzi dal padre, il suo corpo fu dagli dei ricomposto pezzo per pezzo, dicono, eccetto il frammento fra la scapola e l'omero sinistro. E così gli applicarono al posto del pezzo smarrito un bel ricambio d'avorio e Pelope fu reintegrato. Da oltre confine affluiscono i nobili, son le città a supplicarli di andare in persona a portare conforto. Argo, Sparta e Micene in Peloponneso e Calidone, che la severa Diana ancora non detestava, e la fertile Orcomeno e bella dei suoi bronzi Corinto, Messene l'indomita e Patra e la modesta Cleone e Pilo di Neleo e Trezene non ancora di Pitteo e le altre città circoscritte dai due mari dell'Istmo e quelle che i mari dell'Istmo li guardano dal di fuori. Ma non ci si crede, tu sola mancavi, Atene, all'appello. La guerra te lo impediva. Traversato il mare, un esercito di barbari ti atterriva, barricata dentro le mura. Fu Tereo di Tracia, accorso in aiuto da bravo alleato a sgominarli e così guadagnarsi un'ottima fama. E così re Pandione, sedotto dalla sua ricchezza e potenza e dalla felice occorrenza che discendesse da Marte, se lo lega dandogli progne in sposa. Alle nozze però non presenzia Giunone, non Imeneo, non una grazia. Le Eumenidi reggono fiaccole rubate a un funerale e fanno il letto, le Eumenidi. Sulla casa cala un immondo gufo che si appollaia giusto sopra la stanza. Congiunti con questi auspici, Pronia e Tereo con questi auspici mettono al mondo un figlio. La Tracia, naturalmente, è tutta che si congratula e rende grazia agli dèi. Sia il giorno in cui Pandione accordò sua figlia al buon re, sia quello in cui nacque Iti, la gente li vuole festivi. Tanto si sbagliano i calcoli. Il titano celeste, nel ciclo degli anni, per 5 volte ha replicato l'autunno, quando Progne blandisce il marito. «Se mi vuoi bene», dicendogli, «appena un poco, permettimi di andare a trovar mia sorella o di farla venire qui. Prometti pure a tuo suocero che tornerà presto. Se tu me la fai rivedere, mi fai un enorme regalo». Lui comanda di mettere subito in mare un'imbarcazione. A forza di vele e di remi, guadagna il porto di Cecrope e ormeggia davanti al Pireo. Non appena introdotto dal suocero, una bella stretta di mano ed il colloquio si avvia sotto ottimi auspici. Tereo enuncia il perché del suo viaggio, chi sua moglie vorrebbe tanto rivedere, con la promessa di riportargliela presto. Quando eccola, lei, Filomela, sfarzosa di abiti e gioie, ma più sfarzosa di sé, come naiadi e driadi che vagano per le foreste, se è vero quel che si dice, ove mai mettersi in mostra potessero, con quegli abiti e quello sfarzo. A veder la giovane donna, Tereo si accende e divampa subito, come se appicchi il fuoco alle spighe secche o bruci i rami e le foglie stipati dentro il fienile. Merita, bella com'è, ma una libidine innata lo aizza e, come costuma dalle sue parti, si arrende alla foia. Ha un vizio, cioè, vuoi proprio, vuoi nazionale. Il primo impulso è quello di corrompere le sue compagne e la fedeltà della balia, o magari con doni imponenti tentare lei stessa, per lei dilapidare il suo regno, o rapirla e magari tenersela a costo d'un'orrida guerra. Nulla che non oserebbe per quell'amore sfrenato, e ormai le fiamme che chiude nel cuore debordano, non sopporta più dilazioni e ritorna ossessivamente sul desiderio di Progne e con quello nasconde il suo. L'amore lo rende facondo e quando eccede insistendo attribuisce l'eccesso alle istanze di Progne. Le lacrime che aggiunge anche quelle figurano commissionate da Progne. Dei del cielo, che notte di tenebra abita il cuore dell'uomo. La smania di consumare il crimine gli si accredita a scrupolo di pietà, riscuote elogi il delitto. E Filomela? Anche lei, con dolcezza, non lo asseconda, cingendo le spalle del padre e implorandolo di mandarla a trovar la sorella, se le vuol bene, un pessimo bene. Tereo la guarda e con gli occhi la tocca, la palpa, alla vista di quei baci e di quelle braccia che cingono il collo paterno, tutto lo eccita, tutto gli brucia, tutto lo affama di rabbia d'amore e ogni volta che quella abbraccia suo padre vorrebbe essere lui, quel padre, empio per empio. Finché il padre alle due figlie non si arrende, la poverina lo ringrazia felice e si immagina un bel successo per tutte e due, quel che sarà la rovina di tutte e due. A Febo non avanzava granché di lavoro e i cavalli gli scalpitavano già lungo il pendio dell'Olimpo. Si allestisce un pranzo regale, il vino in vasi d'oro. Poi si abbandonano i corpi alla dolcezza del sonno. Ma il re dei traci è stregato da lei, eppure se non la vede, rivede quel viso, quel portamento, le mani, e lascia al suo desiderio di figurargli il non visto. Alimenta il suo fuoco col fuoco, non riesce a dormire. Si fa giorno, stringendo la mano del genero pronto a partire, Pandione, le lacrime agli occhi, gli raccomanda la figlia. Genero caro, costretto dalle buone ragioni del cuore, dal desiderio di entrambe le figlie e dal tuo, te la affido. Mi appello alla tua lealtà, ai vincoli della famiglia, agli dèi. Ti prego, proteggila con tenerezza paterna e sollievo di questa vecchiaia, appena possibile. Eterno mi sembrerà qualsiasi ritardo, riportala Tereo. E tu, se un po' di bene mi vuoi, tua sorella lontana, è già troppo. Appena possibile, Filomela, torna da me. Si raccomanda e nell'atto di raccomandarsi copre la figlia di baci e si strugge e la inonda di lacrime. Poi, come pegno di fede, vuole che i due si stringano le mani e strette le stringe fra le sue mani e li supplica di ricordarlo alla figlia e al nipotino lontani. E si cava a stento di bocca fra i singhiozzi gli ultimi addii con il cuore sgomento di cattivi presentimenti. Filomela è appena montata sulla nave di tanti colori. Appena immersi nell'acqua, i remi si staccan da terra, che lui, «Vittoria, l'oggetto del mio desiderio è con me!» esulta, ed a malincuore differisce il piacere senza staccarle, selvaggio, bestia, un attimo gli occhi di dosso. Così fa l'uccello di Giove, quando acciuffa la lepre con i piedi uncinati e la porta nel nido sulla montagna. Non ha scampo la preda. Soddisfatto, lui se la guarda. Finita la traversata, tirato arriva il naviglio sfiancato, il re si trascina la figlia di re Pandione dentro un capanno nascosto nel fondo d'un bosco antico e ce la rinchiude, pallida, tremante, lei che ha paura di tutto e già chiede piangendo dove sia sua sorella. E lui le confessa l'infame disegno e, vergine e sola, la violenta. Lei che continua a chiamare invano suo padre, sua sorella a chiamare, soprattutto a chiamare gli dèi. Trema come l'agnella che, scampata perdendo sangue alla bocca d'un lupo grigio, non si sente al sicuro, o come colomba che, atterrita a vedersi le piume bagnate di rosso, ripensi gli unghioni che aveva piantati addosso. Ma presto, rientrata in sé, si strappa gli sparsi capelli come fosse in lutto, le braccia si tortura, spiana le palme contro Tereo. «Dell'atto infame che hai commesso», grida, «ti rendi conto che non ti ha commosso nemmeno, figlio di cane, la fiducia d'un padre in lacrime, né una sorella in pena, né il fatto che io fossi vergine, né il vincolo coniugale. Tutto hai sovvertito, me hai reso rivale di mia sorella, te bigamo, e adesso mi merito la pena». Perché ha consumato incesto. Tu non vorrai risparmiarti un delitto, perché non mi ammazzi? infame, lo avessi fatto prima del coito maledetto. Fra le ombre sarei un'ombra senza una macchia. Però, se gli dèi ci vedono, se il loro potere qualcosa conta, se con questa mia vergogna non tutto è finito, tu sì me la pagherai, se non oggi, domani, senza ombra di pudore, racconterò le tue gesta. Se avrò l'occasione andrò fra la gente, se invece sarò reclusa nel bosco, agli alberi griderò, mi confiderò con le pietre. Mi ascolterà l'aria ed un Dio, se nell'aria qualcuno ce n'è. Parole queste che esasperano la ferocia del re e al contempo la sua paura. Istigato dall'una e dall'altra, sguaina la spada che porta appesa alla cinta, acciuffa la donna per i capelli, le torce le braccia e dietro la schiena gliele lega. Lei, Filomela, vedendo la spada, spera che quello la uccida e gli porge la gola. Ma lui, quella lingua che continua a invocare il padre e a sfogare indignazione e disprezzo, gliela stringe in una tenaglia e la taglia. La sua radice guizza ancora in fondo alla gola, mentre l'intero sussurra palpitando per terra nel sangue. Come ancora saltella la coda mozzata al serpente che muore e morendo con quel tremolio cerca il resto del suo padrone. Anche dopo il delitto si dice che Tereo, non posso crederci, tornasse a sfogare sul corpo mutilato la propria libidine. Ciò fatto, ha il triste coraggio di presentarsi a Progne, che appena lo vede gli chiede della sorella, e lui, con voce strozzata, le dice che è morta e accredita il falso racconto, rompendo in singhiozzi. Progne si strappa di dosso i veli splendenti di larghe urlature d'oro, si veste di nero, erige un sepolcro deserto, offre ad un'ombra che non c'è sacrifici espiatori e piange per la sventura d'una sorella che meriterebbe pianto ben altro.